GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Le donne guadagnano 9.500 euro in meno degli uomini, ma nel privato i lavoratori tornano ai numeri pre-pandemia. Missione Turchia, da Gorizia e Pordenone, le unità cinofile dei vigili del fuoco già arrivate nel paese devastato dal sisma. La procura di Trieste verifica eventuali negligenze per la morte del portuale al Molo VII, lunedì l'incarico per l'autopsia. Calcio Udinese, oggi bianconeri accolgono il Sassuolo, mister Sottil contento per la preparazione della squadra. Serie C, il Pordenone rischia grosso, ma alla fine pareggia con Mantova per la Triestina 3 punti d'oro contro l'Albino Leffe. 8:30 di domenica 12 febbraio, buongiorno da Maria Spezia e Rita Micoli. Uno sguardo al meteo: il cielo è variabile, poco nuvoloso. Alle 7 c'erano 3,5 gradi a Trieste, a Gorizia, Pordenone, Udine meno 2 gradi, a Forni di sopra 6,5 gradi, sul Piancavallo 5 decimi di grado positivi, a Tolmezzo e Sappada meno 1 grado, a Tarvisio meno 3,5, sul Monte Zoncolan 3 gradi, sul Lussari 1, sulla costa Lignano 5 gradi, 2 a Grado. Le previsioni dell'Agenzia regionale di protezione ambientale: al mattino variabile o poco nuvoloso con possibile maggiore nuvolosità sulla fascia orientale, in giornata poi cielo sereno o poco nuvoloso. Sovrabora moderata sul Carso e dal pomeriggio anche sulla costa e sulle altre zone orientali. Sui monti lo zero termico sarà un po' in calo in serata fino a 1400 metri circa, specie a est. Disparità di retribuzione tra donne e uomini e tra lavoratori anziani e giovani nel settore privato in Friuli Venezia Giulia, ma il numero di assunti è tornato ai livelli di 3 anni fa. Superati i livelli pre-pandemia nell'occupazione dipendente nel settore privato del Friuli Venezia Giulia, il numero di lavoratori dipendenti che presentano almeno una giornata retribuita è stato infatti pari a 360.000, quasi 6.900 in più rispetto al 2019, e quanto emerge da una ricerca elaborata da Alessandro Russo per l'IRES del Friuli Venezia Giulia su dati dell'INPS. Un calo il lavoro stagionale e l'apprendistato. Settori in crescita: l'edilizia, grazie ai notevoli incentivi esistenti, e le attività di ricerca, selezione e fornitura di personale. Altri settori che hanno mostrato un andamento positivo sono quelle delle produzioni in metallo e delle pulizie. La retribuzione media lorda annua nel 2021 è stata pari a quasi 23.000 euro, che diventano oltre 33.000 euro per chi ha lavorato per l'intero anno e con un contratto a tempo pieno. Persiste la disparità di retribuzione per le donne rispetto agli uomini, che guadagnano circa 9.500 euro in meno all'anno. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca ancora da chiarire: la dinamica dell'incidente è costato la vita ieri pomeriggio a Omar Baolini, 31 anni, originario di Manzano ma residente a Visinale dello Iudero. Poco prima delle 17 stava viaggiando in sella alla sua moto lungo la provinciale 78 bis, quando ha perso il controllo ed è finito prima contro il guardrail e poi nel fossato a bordo strada. Alcune persone che si trovavano sul posto hanno tentato di rianimarlo con la guida della sala operativa per l'emergenza sanitaria, ma quando è arrivata l'ambulanza non c'era già più nulla da fare. E sarà disposta probabilmente lunedì l'autopsia sul corpo di Paolo Borselli, il lavoratore portuale che giovedì scorso a Trieste è caduto in mare a bordo del mezzo che stava manovrando sul Molo VII. La procura sta visionando le telecamere anche per capire se l'incidente è il frutto di una disattenzione o se c'è stata negligenza da parte di qualcuno. L'autopsia dovrà invece stabilire se l'uomo sia morto annegato o se invece abbia avuto prima un malore che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo. Sono già arrivate in Turchia le unità cinofile dei nostri vigili del fuoco che collaboreranno ai soccorsi nelle zone terremotate. Dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Gorizia sono operativi da stanotte in Turchia il vigile coordinatore Andrea Leban con il pastore australiano Lamu di 8 anni, assieme a lui il vigile esperto Marco Tomasella con il labrador Nikita di 6 anni, da Pordenone invece lo specialista Marco Borrello. Coordinamento regionale a cura di Agatino Carrolo. Il campo operativo si trova nella provincia turca di Hatay, al confine con la Siria. Da lì il coordinamento locale dei soccorsi sta decidendo la destinazione di ciascuna squadra. Sentiamo il coordinatore goriziano Andrea Leban. Noi facciamo parte del modulo USAR, un acronimo che significa Urban Search and Rescue, cioè dire la ricerca e il recupero delle vittime coinvolte da crolli in ambiente urbano. La missione dovrebbe durare 6 giorni. I nostri cani settimanalmente hanno un addestramento sul campo macerie, cioè dei campi che simulano il crollo, simulano un terremoto, e sfruttiamo quella che è la loro caratteristica migliore, cioè il naso e il fiuto. Gorizia, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Oggi la commemorazione del 78esimo anniversario dell'eccidio delle Malghe di Porzusa avrà inizio al cimitero di Faedis, dove sarà reso omaggio alla tomba di Franco Celledoni alle 9:15. Alle 10 sarà deposta una corona sul monumento ai caduti. Alle 11 la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Canebola e il ricordo di Don Redento Bello. Concluderà gli interventi il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, prima del pellegrinaggio alle Malghe. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso il patrocinio alla cerimonia solenne degli sloveni in Italia in occasione della giornata della cultura slovena oggi in calendario. Per l'occasione Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale dalle 16:45 alle 20 nel Palazzo delle Poste, abbinato al concerto Suoni Sinfonici alle 18 con l'Orchestra Sinfonica Friuli Venezia Giulia Orchestra diretta dal maestro Tomas Kukovic. Il concerto verrà trasmesso in diretta radio su Radio Rai 3 Friuli Venezia Giulia e sarà teletrasmesso su Rai 3 Friuli Venezia Giulia domenica 19 febbraio alle 20:55. Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni sosterrà la raccolta firme per la presentazione della lista candidata alle elezioni regionali Alleanza Verdi Sinistra a Gorizia al Caffè Teatro di Corso Verdi dalle 9:30 alle 10:30. Sarà poi a Monfalcone al Bar da Marino dopo le 11 e a Trieste al Teatro Fabbri con il candidato presidente Massimo Morettuzzo, Stefano Patuanelli del Movimento 5 Stelle e il consigliere regionale Francesco Russo del PD alle 16:30. Sembra paradossale, ma il fuoco, se controllato, può aiutare a prevenire gli incendi. Una tecnica recente, sperimentata ieri in Friuli, sia pur con altri obiettivi. Il fuoco come mezzo per ottenere la salvaguardia della biodiversità è utile alla prevenzione degli incendi boschivi. In Friuli Venezia Giulia si continua ad applicare in aree circoscritte il cosiddetto fuoco prescritto, una tecnica operativa che mira a conseguire diversi obiettivi nella gestione del territorio, soprattutto nelle zone che rischiano di impoverire la biodiversità. Alle risorgive di Flambro, comune della pianura friulana, una 50 tra addetti del Corpo Forestale Regionale, della Protezione Civile e della Direzione Regionale delle Risorse Forestali hanno utilizzato il fuoco controllato per favorire la creazione di un mosaico di ambienti diversi, per mantenere un habitat di interesse conservazionistico e per ridurre il rischio degli incendi. Fabio Bidese, del Servizio Biodiversità della Regione Friuli Venezia Giulia. Noi usiamo il fuoco in alternativa alle macchine e alle forze degli uomini e in maniera veloce riusciamo a trattare superfici rapidamente e riducendo al minimo anche l'impatto ambientale, perché il fuoco è un elemento del naturale, sempre conosciuto dall'uomo. Flambro, Andrea Rinaldi, TGR Friuli Venezia Giulia. Da oggi e fino a domenica prossima, 19 febbraio, sarà accessibile la campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare Cardiologie Aperte, 17esima edizione di un'iniziativa intesa a contrastare la causa del 44% dei decessi in Italia. Sarà attivo il numero verde 800 05 22 33 tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16 per domande sui problemi legati alle malattie cardiache, a cui risponderanno gratuitamente cardiologi delle strutture che aderiscono all'iniziativa. Il mondo del calcio e soprattutto i tifosi dell'Udinese sono in apprensione per l'uomo che ha portato la squadra friulana a livelli mai più visti, Alberto Zaccheroni. Il servizio di Giulia Bondi della redazione della TGR di Bologna. Forza mister, forza Zac, sui social lo incoraggiano le sue squadre. L'Udinese conquista le vette della Serie A a fine anni 90 e la nazionale non profit che allena dallo scorso anno. Resta riservata la prognosi per Alberto Zaccheroni, 69 anni, ricoverato in rianimazione all'ospedale Buffalini di Cesena con un trauma cranico. Accanto a lui i familiari che lo hanno trovato a terra nella sua casa di Cesenatico. Nessuno ha assistito alla caduta e non si sa se a provocarla sia stato un malore. Zaccheroni, 69 anni, conquista lo scudetto alla guida del Milan nel 99. Nel suo palmarès anche la Coppa d'Asia da CT del Giappone nel 2011. In carriera ha allenato anche Venezia, Bologna, Lazio, Inter, Juve e Toro. La svolta in Serie A con l'Udinese che porta la qualificazione UEFA nel 97 e a uno storico terzo posto in campionato l'anno seguente. Una bravissima persona, un grandissimo allenatore, dice Andrea Sottil, mister bianconero. Tutta la famiglia udinese prosegue, gli fa un grande in bocca al lupo per la sua guarigione. E oggi il pubblico delle grandi occasioni al Friuli per supportare l'Udinese che alle 12.30 affronterà il Sassuolo. Mister Sottil ha sottolineato l'impegno del gruppo che dopo la sconfitta di Torino ha anticipato il raduno con una settimana intensa di preparazione. Un'ottima settimana con una squadra prima di tutto fatta di uomini e poi da ottimi calciatori che si sono allenati come dei forsennati con grande fame, con grande concentrazione per preparare questa partita. Non dobbiamo avere l'ossessione, la frustrazione del risultato. Noi dobbiamo passare attraverso una prestazione lucida, organizzata, intelligente, perché le partite durano 100 minuti e noi dobbiamo stare in partita tutti i 100 minuti, cosa che secondo me non abbiamo fatto contro il Torino. E questa squadra ha sempre dimostrato di stare in partita sempre perché abbiamo le qualità, la forza, l'intensità, la fisicità e soprattutto l'organizzazione per mettere in difficoltà anche il Sassuolo. Pereira è assolutamente recuperato, quindi lavora col gruppo già dalla metà settimana. Il resto sono tutti disponibili per partecipare alla partita. Ancora calcio in Serie C, vince finalmente la Triestina, mentre il Pordenone riesce a strappare un pareggio nel recupero. Un pari per il Pordenone strappato al Mantova praticamente al 90esimo, prima vittoria esterna per la Triestina e questo il verdetto della 27esima giornata della Serie C. Nell'ultima apparizione al Tegil di Lignano il Pordenone è fermato in tre occasioni dai legni, un palo e due traverse nel primo tempo con Palombo, Aieti e Burrai. Nel mezzo l'autogol di Giorico su punizione innocua di Guccione. Nella ripresa 2-0 dei Mantovani con l'ex Boccalon, poi il rigore di Burrai per fallo appena dentro l'area su Candelone e il pari al 90esimo di Negro, di testa, su punizione del solito Burrai. Nel finale grande occasione per Aieti, sempre da punizione di Burrai, con salvataggio della difesa a portiere battuto. Bene la Triestina Zanica contro l'Albino Leffe, primo tempo equilibrato e con poche occasioni. Spiccano i due pali dei padroni di casa, tra cui uno clamoroso di Manconi. Nella ripresa Gelli tesse la trama contro la sua stessa squadra. Fallo di mano netto su un tiro per nulla minaccioso di Tavernelli, rigore trasformato da Felici. Nel finale gli alabardati legittimano il successo con tre buone occasioni da gol. In classifica Pordenone terzo con 46 punti, Triestina ultima ma a sole due lunghezze dal Piacenza. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. Basket di A2, Cividale si è fatta battere in rimonta da Forlì al Palagestecco, bene le prime due frazioni, poi i primi in classifica hanno preso il largo nell'ultimo quarto e hanno chiuso sul 77-73. In A2 femminile Dester Uomo Napoli è stata battuta in casa per 69-59 dal Costa Masnaga. Anche Futurosa Trieste è stata battuta nello scontro salvezza al Pala Trieste da Alpo Villafranca per 80-77. Oggi in Serie A la Pallacanestro Trieste sarà impegnata sul parquet di Tortona alle 17, mentre in A2 la Old Wild West giocherà a Pistoia alle 18. La pallanuoto, sconfitta esterna per la Pallanuoto Trieste nella quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A1 maschile. Gli alabardati sono stati battuti da Savona per 13-11, uno stop che allontana ulteriormente la squadra dalla zona playoff. Grazie a un parziale di 5-0 negli ultimi minuti, le orchette della Pallanuoto Trieste battono il Comanuoto per 10-8 sabato prossimo sul campo del Bogliasco. Secondo successo consecutivo per la Pallamano Trieste che al Palacchiarbo l'ha battuto per 34-23 il Venplas Dossobuono in un match in cui la formazione di casa è riuscita a prendere il largo nella ripresa dopo un primo tempo giocato sottotono. Volley nella 2 maschile, la Tinet Prata sconfitta in casa dalla Libertas Cantù per 3-7-1. Per la Serie D di calcio, il Chierlinz Muzzane ha vinto il derby friulano contro il Tor Viscosa per 3-1. E negli sport invernali e mondiali di biathlon, un'influenza con febbre alta ferma la sappadina Lisa Vittozzi. Oggi niente inseguimento sui 10 chilometri. La nuova orchestra Ferruccio Busoni, diretta da Massimo Belli, che state ascoltando in una registrazione di composizioni di Andrea Lucchesi, sarà protagonista con il pianista Giovanni Bellucci del penultimo concerto della rassegna Mattinate Musicali Internazionali in occasione del Giorno del Ricordo. In programma capolavori del classicismo con musiche di Mozart e Van Beethoven, appuntamento a Trieste nell'auditorium del Museo Revoltella alle 11. Altri appuntamenti a teatro: l'attore Leonardo Capuano sarà sul palco di Sistema Nervoso a Trieste, Hangar Teatri alle 17. In viaggio con il Piccolo Principe, tratto dal capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry, sarà in scena a Pordenone al Teatro Verdi alle 16.30. Lo shakespeariano Otello nell'adattamento e per la regia di Yuri Ferrini a San Vito, Auditorium Centro Civico alle 20.45. Topi d'azzardo, lo spettacolo scritto e diretto da Barbara Senico in rappresentazione a Trieste, a Porto Vecchio, al magazzino 26 alle 17, ingresso libero. La commedia musicale Tre Sorelle Tre, ispirata all'opera teatrale di Chekhov, sarà in scena a Muggia al Verdi alle 17.30. Per la musica, la pianista ucraina Milana Kuran si esibirà a Pordenone alla Casa dello Studente alle 11. La prova generale dell'opera In un atto il Piccolo Principe a Pordenone, Auditorium Concordia alle 17. Il maestro Giuseppe Piero Bon eseguirà la messa di San Giuseppe a Raucedo nella chiesa parrocchiale alle 9.30, a seguire la presentazione del libro delle messe al Teatro Don Bosco alle 10.45. E 150 scatti di matrimoni celebrati nella chiesa di Santo Svaldo a Udine tra il 1930 e il 2019 nell'esposizione Sposi ieri e oggi in uno scatto fotografico, una mostra che racconta le radici di un quartiere che ha vissuto momenti difficili come l'esplosione del 17, quando una deflagrazione in varie polveriere causò la distruzione dell'abitato. L'inaugurazione alle 11 nella cappella della chiesa in via Pozzuolo. La mostra sarà visitabile fino a domenica 19 febbraio. 8.47, diamo inizio alla rassegna stampa dei quotidiani. Oggi in edicola la crescita del 7% dei posti letto a Trieste, l'apertura dell'edizione giuliana del Piccolo, che per la politica informa sulla firma del patto tra Partito Democratico e Unione Slovena in vista delle elezioni regionali di aprile. Poi ancora politica sul voto del congresso del PD a Trieste, che ha visto Cuperlo superare Elly Schlein. Spazio poi al vertice di mercoledì tra lavoratori dei musei civici di Trieste e azienda con l'assessore alla cultura, dopo le proteste degli addetti che percepiscono 3,68 centesimi di euro l'ora. Ancora lavoro con l'ordine di servizio di ieri sera della Trieste Marine Terminal per evitare nuovi incidenti, così come richiesto dai sindacati a seguito del decesso di un lavoratore giovedì sera. Nell'interno si leggono anche le iscrizioni ai ricrestate e centri estivi in programma dall'11 al 29 aprile. Sul Messaggero Veneto di Udine, apertura sul lavoro, la differenza degli stipendi, meno guadagni per le donne, di spalla alla cronaca con l'incidente mortale di ieri a Manzano e i dati sulla sicurezza in autostrada, meno incidenti ma più gravi. La fotonotizia è per Sanremo, Zelensky e le polemiche, in taglio alto la politica cittadina verso le comunali, la sfida tra Fontanini e De Toni, che apre anche la cronaca di Udine. In basso l'incidente a Zaccheroni e la festa di buia per Jonathan Milan. Sul Gazzettino, inserto del Friuli in apertura allo stallo del commercio e il mortale di Manzano. La sanità di spalla, pochi medici in corsia, chieste più risorse, sotto la corsa Palazzo d'Aronco. Nella fotonotizia il cane finisce nel dirupo, lo salvano i vigili del fuoco. In taglio basso il calcio, Udinese fame di vittoria, e nel basket Cividale bella ma sfortunata. Il Piccolo di Corizia apre sugli stipendi medi locali di 21.000 euro, inferiori dunque rispetto a quelli dei triestini che sono di quasi 25.000. Spazio poi al programma elettorale di Massimo Morettuzzo, candidato del centro-sinistra per le elezioni regionali, e poi un commento del magistrato Vladimiro Zagrebelsky, che sul caso Regeni intende che il governo dovrebbe ricorrere alla Corte Internazionale di Giustizia per punire i responsabili. Capocronaca, la bonifica delle rive isontine da vecchi pneumatici per Monfalcone e il proseguimento del progetto della ciclabile a collegamento con lo scalo di Ronchi. L'emendamento salva 18.000 pazienti, l'apertura del Gazzettino di Pordenone sul via libera alle misure del mille proroghe per i medici di famiglia. Ausiliari della sosta, una multa ogni 5 minuti in città, un altro titolo nella fotonotizia, il carnevale in città. In taglio basso lo sport, pari del Pordenone, la rimonta in 10 e nel volley tante emozioni, ma la Tinet non passa. In prima sul Messaggero una storia dagli USA, in Colorado una giovane ha tatuato sul braccio il campanile di Cordovado, paese di origine della madre. In taglio alto, balzo dei ricavi alla cantina di Raucedo e eventi e negozi per rilanciare Piazza Risorgimento. Per i programmi della sede RAI del Friuli Venezia Giulia, oggi alle 9.15 la terza e ultima puntata del racconto sceneggiato radiofonico sul lettino di Vice di Fabio Favretto. La programmazione televisiva alle 9.15 su Rai 3 propone Alpe Adria Magazine, il filmato Antichi Cammini da Venzone ad Aquileia e il corto Piazza Garibaldi. È tutto per questa edizione del giornale radio, in regia Giuliano Pecorari, in redazione Valentina Veneruso, da Maria Spezia e Rita Micoli, l'augurio di una buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.